tipo distintissimo, egli era anziché no, e inoltre ambiziosissimo, quante sere si può. Ma quando lo guardavano impallidive poi, una furtiva lacrima velava gli occhi suoi. Perché, perché, perché, ahimè, ahimè, ahimè. Lui non sapeva fare il nodo alla cravatta, il nodo alla cravatta non lo sapeva far. Sapeva cavalcare, andare in motoretta, ma il nodo alla cravatta no, quello no, proprio no. Il nodo alla cravatta no, non lo sapeva far. Una ragazza nubile un giorno l'aiutò, e un nodo indissolubile al collo gli annodò. Poi zii, fratelli e suoceri in casa gli portò, e di sgobbar per 15 d'allora lui toccò. E tutto ciò perché? Ahimè, ahimè, ahimè. Lui non sapeva fare il nodo alla cravatta, il nodo alla cravatta non lo sapeva fare. Sapeva cavalcare, andare in motoretta, ma il nodo alla cravatta no, quello no, proprio no. Il nodo alla cravatta no, non lo sapeva fare. Un giorno adiratissimo il nodo si strappò, ma sulla seta lucida la mano gli scappò. Andò a colpir la lampada che stava sul comò, e questa rovesciandosi la casa gli incendiò. E il contatore del gas si accese come un flash, e tutto in aria andò, e il mondo sussultò, ed arrotondò i bo, quadrato diventò. E tutto ciò perché? Ahimè, ahimè, ahimè. Sapeva cavalcare, andare in motoretta, ma il nodo alla cravatta no, quello no, proprio no, il nodo alla cravatta.